Il punto di Stefano Folli. Lo scontro sul lavoro può cambiare la storia del governo Renzi e forse del centrosinistra, nel senso che delle due l'una: o si trova un accordo sui punti chiave del provvedimento che abolisce l'articolo 18, o si va verso una spaccatura verticale nel Partito Democratico. E tale frattura renderebbe decisivi i voti di Forza Italia, cioè di Berlusconi, per far passare la legge in Parlamento. La conseguenza ovvia sarebbe la crisi di governo e poi nessuno oggi è in grado di prevederlo. La logica vuole che si arrivi a un compromesso, comprendente però una riforma incisiva in grado di cambiare le regole che asfissiano il mercato del lavoro. Un compromesso per coprire l'immobilismo non servirebbe a nessuno e per Renzi sarebbe non una semplice sconfitta, ma la sconfitta con la S maiuscola. Tuttavia, prima di concludere che tutto questo serve solo a portare il Paese alle elezioni anticipate, è bene riflettere che a Renzi conviene essere visto come il più energico innovatore della sinistra, non come l'uomo che ha distrutto il suo partito per essere poi fagocitato da Berlusconi.